Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. E pensare che la compagnia dell'Amalfitano, fino a ieri certa, fedele alla mia dipendenza, adesso era diventata un'impossibilità, continuava mio padre. Questo pensiero disperato mi imbestialiva tanto che mi buttai a terra, piangendo e mordendo i ferri del suo letto. Chiamavo Amalfi, Amalfi, e mi ricordavo i dispetti che gli avevo fatto in vita. Mi pentivo. Ma nel tempo stesso mi tornava quasi da ridere al ricordo, per esempio, di certe volte che, mentre lui discorreva e mi raccontava con gran gesti i suoi sogni, d'un tratto io m'allontanavo senza rumore e andavo a nascondermi in qualche angolo, fingendo di sparire come la nebbia. Dopo un poco lui avvertiva la mia assenza e, sconcertato, si dava a chiamarmi, a cercarmi per le stanze, a tentoni, puntando il suo bastone sui muri. E adesso era lui che mi lasciava chiamare senza rispondere. Se si fosse risvegliato, almeno solo per un'ora, avrebbe udito da me cose meravigliose, tutte verità senza l'ombra di una bugia, e avrebbe avuto ragione di pavoneggiarsi. Lui non sentiva né vedeva più nessuno, fino alla fine dell'eternità, e io lo sapevo. Ma pure, a ogni costo dovevo dargli una prova, un pegno che salvasse la nostra amicizia dalla morte. Allora, posando la mia palma nella sua manina rigida, io gli promisi con giuramento che, per quanti amici potessi avere nel futuro, li avrei sempre esclusi da Procida. In quest'isola, che era stata abitata per me soltanto dalla nostra amicizia, il suo ricordo sarebbe per sempre il solo amico mio. Così gli ho giurato. E qua, a Procida, perciò, dove nomi uniti di Wilhelm e di Romeo sono scritti perfino sui sassi, perfino nell'aria, io non m'accompagnerò mai con altri amici. Se lo facessi, mi macchierei di tradimento e di spergiuro e condannerei la nostra amicizia a cadere uccisa. Dopo tale affermazione solenne, mio padre adocchiò con malizia il ritratto dell'Amalfitano, quasi a dirgli: «Sei contento, morto, di questo omaggio alla tua capricciosa follia?» E poi sospirò. Ma poi, forse pentito, lo riguardò con un sorriso disarmato, fanciullesco, e lasciandosi di nuovo attrarre dal ricordo, riprese a dire: «Quando mi nominò erede della casa, mi fece pure un bel discorso d'occasione, come in un grande romanzo. Questo palazzo, mi disse, è l'oggetto più caro che ho posseduto sulla terra, e perciò lo lascio a te. Ti lascio pure certi denari che ho alla banca di Napoli, così, aggiungendoli alla proprietà di tuo padre, diventerai quasi un signore. È una grande soddisfazione per me il pensiero che tu potrai risparmiarti di lavorare, perché il lavoro non è per gli uomini, è per i ciucciarielli. Anche una fatica magari può dar gusto qualche volta, purché non sia un lavoro. Una fatica oziosa può riuscire utile e simpatica, ma il lavoro invece è una cosa inutile e mortifica la fantasia. Ad ogni modo, se per caso non ti bastassero i soldi e tu dovessi proprio adattarti a un lavoro, ti consiglio un mestiere che favorisca la fantasia quanto più è possibile, per esempio lo spedizioniere. Ma vivere senza nessun mestiere è la migliore cosa, magari accontentarsi di mangiare pane solo, purché non sia guadagnato. Questo palazzo che ti lascio, per me è stato la reggia delle favole, il paradiso terrestre, e il giorno che lo dovrò abbandonare mi consolerà il pensiero che diventerà casa tua. A un altro pensiero, poi, sono rassegnato, e cioè che tu qua non ci abiterai solo, ma con una moglie. Tu, difatti, pare strano, ma sei di quelli che se non hanno una moglie ad aspettarli in qualche posto, non ce la fanno col cuore a tenersi in vita. E va bene, io non mi oppongo alla tua sorte e alla tua fantasia. Portacela pure in questa casa la moglie. Per mia fortuna io non ci sarò più a quel tempo, giacché pure l'ultimo mio respiro io preferirei doverlo soffiare in faccia al boia che in faccia a una femmina. Pure cieco come sono, all'idea di avere dinanzi agli occhi una femmina, perfino la morte mi andrebbe di traverso. Il mio morire non sarebbe più un morire, sarebbe un crepare. Tutto difatti si può perdonare al prossimo, ma la bruttezza no. E qualsiasi bruttezza al pensiero mi pare piacente se la metto a confronto con la bruttezza delle donne. Misericordia quanto sono brutte quelle là, E dove altro mai può esistere una bruttezza così amara, così speciale, che uno, pure se non la guarda e non la vede, solo a sapere che c'è si sente contrariato. Ti sposerai e la porterai qua e metterete famiglia. Per te è fatale. A me basterebbe un'altra speranza, che il posto dell'amicizia in questa tua casa, almeno in quest'isoletta di Procida, tu lo riservassi solo a me. Ma basta. Questa dunque è la tua casa e tu ci tornerai sempre, ne sono sicuro, perché a casa sempre ci si ritorna. E anche per te è un giardino fatato questa mia isoletta. Ci tornerai sempre, sì. Però, aggiungo, non ti ci fermerai mai per molto tempo. Su ciò, caro padroncino, non voglio farmi illusioni. Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza. E mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua. E appena tornati qua, subito hanno voglia di scappare via. Tu te ne andrai da un luogo all'altro, come se fuggissi di prigione o corressi in cerca di qualcuno. Ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E a proposito, a Adesso voglio dirti il sogno che ho fatto stanotte. Ho sognato di essere giovanotto, elegante, baldanzoso. Dovevo essere diventato un grande visir o qualcosa di simile. Ero vestito con un costume turco di seta sgargiante, del colore dei girasoli. Ma che girasoli! Più bella assai! Non è possibile trovargli un paragone adatto. Avevo un turbantino con una lunga penna, ai piedi due babbucce da ballerino, e me ne andavo canticchiando per un bel luogo dalle parti dell'Asia, dove non c'era nessun'altra persona, in mezzo a prati tutti di rose. Ero contento, brioso, con la bocca dolce, e intorno sentivo sospirare. Ma a me pareva una cosa naturale quel sospiro. Ecco le stranezze dei sogni. E nel mio cervello me ne spiegavo la ragione chiaramente. Questa spiegazione me la ricordo ancora adesso da sveglio. Ed è proprio una spiegazione logica, un vero concetto di filosofia. Chissà perché a me capitano sempre dei sogni così straordinari. Senti se non è un bel concetto. Dunque, pare che alle anime viventi possano toccare due sorti. C'è chi nasce ape e chi nasce rosa. Che fa lo sciame delle api con la sua regina? Va e ruba a tutte le rose un poco di miele per portarselo nell'arnia e nelle sue stanzette. E la rosa? La rosa l'ha in se stessa il proprio miele. Miele di rose, il più adorato, il più prezioso. La cosa più dolce che innamora essa l'ha già in se stessa. Non le serve cercarla altrove. Ma qualche volta sospirano di solitudine le rose, questi esseri divini. Le rose ignoranti non capiscono i propri misteri. La prima di tutte le rose è Dio. Fra le due, la rosa e l'ape. Secondo me la più fortunata è l'ape. E l'ape regina poi ha una fortuna sovrana. Io, per esempio, sono nato ape regina. E tu, Wilhelm? Secondo me, tu, Wilhelm mio, sei nato col destino più dolce e col destino più amaro. Tu sei l'ape e sei la rosa. Al tempo che io stavo per compiere 14 anni, Immacolatella, che ne aveva 8, trovò un fidanzato e rimase incinta per la prima volta nella sua vita. Ma forse oramai era troppo vecchia, o era da sempre inadatta per qualche malformazione nativa, e morì nel partorire i suoi cuccioli. Quando, di lì a qualche tempo, mio padre venne a Procida e mi fece la solita domanda: «Che novità?» Io voltai la faccia senza rispondere. Non mi era possibile dire queste parole. Immacolatella è morta. Glielo disse Costante, e mio padre la notizia provò dispiacere, perché amava le bestie ed era molto affezionato a Immacolatella. Quella volta egli si trattenne a Procida appena un pomeriggio e una notte. Era venuto soltanto per ritirare certi documenti del comune. Restò assente circa un mese e poi riapparve, anche allora per ripartire il giorno seguente, dopo aver riscosso dal colono una somma di denaro. Ma al momento di salutarmi, per la prima volta nella nostra vita, mi informò della sua destinazione e sulla data del suo ritorno. Mi spiegò che da alcuni mesi era fidanzato con una napoletana e che andava a Napoli a sposarsi. Le nozze erano fissate per il giovedì di quella settimana stessa, e subito dopo egli sarebbe ritornato a Procida insieme con la sposa. Perciò, mi disse, io dovevo andare ad aspettarli il prossimo giovedì al piroscafo delle 3 sul molo. Eravamo d'inverno e quel giovedì un piovasco freddo annebbiava Procida e il golfo. Io avevo compiuto da poco 14 anni. Solo pochi giorni prima avevo saputo che da oggi, con l'arrivo del piroscafo delle 3, la mia esistenza cambiava. E, in attesa delle 3, combattuto fra l'impazienza e la ripugnanza, mi aggiravo per il porto. Nell'annunciarmi che sposava quella ignota napoletana, mio padre, con un tono doveroso, che pareva artefatto, tanto gli era insolito, mi aveva detto: «Così tu avrai una nuova madre». E io, per la prima volta da quando ero nato, avevo provato un senso di rivolta contro di lui. Nessuna donna poteva dirsi mia madre, e nessuna io volevo chiamare con questo titolo fuorché una sola, che era morta. Adesso, in quest'aria brumosa, io la ricercavo, l'unica mia madre, la mia regina orientale, la mia sirena. Ma lei non rispondeva. Forse per l'arrivo dell'intrusa si era nascosta o era fuggita via. Non tentavo per nulla di raffigurarmi quale aspetto e quale carattere potesse avere la nuova sposa di mio padre. Respingevo ogni curiosità. Che quella donna fosse fatta in un modo o in un altro, per me era uguale. Essa per me significava soltanto il dovere. Mio padre l'aveva scelta e io non dovevo giudicarla. Secondo i libri che avevo letto, una matrigna non poteva essere che una creatura perversa, ostile e degna di odio. Ma come sposa di mio padre, costei per me era una persona sacra. All'apparire del piroscafo, mi avviai con passo infingardo verso il molo. Cercai di distrarmi osservando le manovre dell'attracco, ma i primi passeggeri che vidi furono loro due, fermi sull'alto della scaletta in attesa che si gettasse la passerella. Mio padre portava la sua solita valigia e lei un'altra, circa della stessa misura. Mentre mio padre, che non m'aveva ancora visto, cercava i biglietti per il controllo, io per prima cosa andai davanti a lei e senza spiegazioni le ritolsi di mano il bagaglio. Il mio dovere lo sapevo. Ma sentii per un istante che essa mi faceva resistenza, quasi m'avesse preso per un rapinatore di valigie. Poi, subito, a riconoscere nel mio gesto un indizio, mi guardò tutta animata e, richiamato mio padre con una lieve estratta alla giacca, gli domandò: «Wilhelm, ma questo è Arturo?» «Ah, sei qui», mi disse mio padre. Essa arrossì per avermi creduto un ladro e mi fece un piccolo saluto, pieno di confidenza, ma anche di discrezione. Sing a song to say to you. Ci incamminammo tutti e tre lungo il molo, verso la piazzetta del porto. Sebbene impediti dalle valigie, io e mio padre andavamo più svelti di lei. Essa camminava goffamente sui suoi tacchi alti, ai quali non pareva avvezza e che la facevano inciampare ogni minuto. Io, pensai, avrei preferito di andare a piedi nudi piuttosto che adattarmi a simili calzature da signora. Fuori di quei tacchi alti, però, e delle sue scarpette nuove, la sposa non aveva proprio nulla di signorile, né di raro. Che cosa m'ero figurato, forse, di vedere arrivare al fianco di mio padre un qualche essere meraviglioso che attestasse l'esistenza della famosa specie femminile descritta nei libri? Questa napoletana, nei suoi abiti informi, consunti, non appariva molto diversa dalle solite pescatore popolane di Procida. E m'era bastato subito un primo sguardo per vedere che era brutta, non meno di tutte le altre donne. Come le altre, era infagottata, aveva il viso bianco e ricolmo, gli occhi mori e i capelli, di cui lo scialle che le avvolgeva la testa lasciava scoperta appena l'attaccatura, neri come le penne del corvo. E non si sarebbe detto nemmeno che era una sposa. La sua persona sembrava già quella d'una donna fatta, ma non così il suo viso, dal quale io, benché inesperto di età femminili, riconobbi per un'intuizione immediata che s'era ancora quasi una fanciulletta, di poco più anziana di me. Ora, è vero che una femmina a 15-16 anni è già cresciuta e grande, mentre che un maschio a 14 è considerato ancora un ragazzino. Ma tuttavia, sempre più mi indignava la pretesa di mio padre, che io, pur senza contare gli altri motivi, potessi ammettere per madre una persona superiore a me di appena un paio d'anni, se non forse meno. Essa era di statura piuttosto alta per una donna, e provai anzi vergogna e dispetto nell'avvedermi che era di parecchio più alta di me. Questo però non è durato molto, mi bastarono pochi mesi per raggiungerla, e alla fine poi, quando sono partito dall'isola, essa mi arrivava a malapena al mento. Mio padre chiamò con un gesto la carrozza che avanzò verso di noi. La sposa, intanto, guardava con occhi spalancati la piazza del porto e la gente, perché era la prima volta che veniva nell'isola. Non ci voleva molto ad accorgersi che aveva una grande soggezione di mio padre. Anche quando usava con lui certe maniere familiari che le erano spontanee, come poco prima nel dargli la piccola stratta alla giacca, lo faceva con un'aria esitante e un poco timorosa. E mio padre, da parte sua, pur sembrando contento di portarsi a casa quella donna, non le dava nessuna confidenza. Non li vedevo bisbigliare né scambiarsi abbracci o baci, come si sente dire che facciano i fidanzati o gli sposi in viaggio di nozze. Questo mi fece piacere. Egli aveva la solita aria di arrogante distacco, ed essa sedeva compostamente, alquanto discosta da lui, tenendo in grembo la sua preziosa borsa, di cui stringeva la chiusura con tutte 10 le dita. Le sue mani erano piccole, ruvide, arrossate dai geloni, e notai che alla sinistra portava un anellino d'oro, la fede di mio padre. Mio padre invece non portava nessun anello. Nessuno di noi parlava. Essa era tutta intenta a osservare il paese. All'incrocio della via principale, passando davanti a una nicchia dove esposto dietro una grata un quadretto di Maria Vergine, essa levò la destra e con aria grave e raccolta si fece il segno della croce, baciandosi per ultimo i polpastrelli delle dita. A scorgere ciò, subito io guardai mio padre, nella certezza di incontrare perlomeno un suo sorriso di beffa o di commiserazione. Ma egli, abbandonato sul sedile in una posa indolente, non badava a lei. Quando arrivammo alla piazzetta, si vide sorgere dal mare la grande curva di un arcobaleno che attraversava la volta dell'aria fin quasi al centro. Nella luce schiarita, fra i mille riflessi del piovasco, apparvero le antiche costruzioni della fortezza, prossime, quasi sopra di noi. Al vederle, la sposa ebbe un movimento di fantastica ammirazione e urtò col gomito mio padre domandandogli in tono d'intesa: «È quella la casa nostra?» Risi fragorosamente. Mio padre alzò una spalla e le disse: «Ma no!» Poi spiegò, rivolto a me, calcando sulle parole: «Le ho raccontato che abitiamo in un magnifico castello!» E mi sorrise con un'espressione straordinaria, di complicità quasi infantile e canagliesca, che mi lasciò dubbioso.